Allora, sono le 9:23 di mercoledì 1 maggio 2024. Intanto buon 1 maggio a tutti. E se non sentite nessun rumore di fondo, come spesso accade, anzi sempre accade in queste registrazioni, perché volontariamente stavolta mi trovo in un ambiente molto più protetto. Sì, sono in auto, ma sono fermo e sono in un parcheggio molto silenzioso. Dico volontariamente perché vorrei che il messaggio fosse molto chiaro e riguarda le proteste negli Stati Uniti, nelle università, partite dalla Columbia University e ormai diffuse a tutto il territorio federale, proteste contro le operazioni militari di Israele a Gaza, e che, come dire, quello che sta succedendo in questo momento è abbastanza paradigmatico. Si è ripetuto il fenomeno molte volte, ma adesso è davvero molto chiaro, soprattutto per quello che riguarda il ruolo dei media. E cioè, più la protesta viene contrastata con la forza, dalla polizia, con arresti, eccetera, più le stesse università minacciano sospensioni e più i media se ne appropriano. E per una forma di effetto Streisand, quello che succede è che la protesta viene amplificata nella sua notorietà e attrae sempre un maggior numero di ragazzi che sentono di essere dalla parte del giusto nel difendere il popolo palestinese da quella che è una reazione che eufemisticamente potremmo definire sproporzionata rispetto agli attacchi orribili, naturalmente, del 7 ottobre di Hamas, attacchi terroristici che hanno causato 1200 morti e oltre 250 ostaggi, 260 ostaggi credo. Però dall'altra parte abbiamo ormai quasi 35.000 morti, di cui la stragrande maggioranza civili, donne e bambini, scuole e ospedali distrutti, un attacco barbaro, indiscriminato e soprattutto l'attacco di uno Stato, non di una organizzazione terroristica. Ecco, questo è importante anche dirlo e chiarirlo. Quindi la protesta è largamente giustificata e i ragazzi sono perfettamente consapevoli di essere dalla parte del giusto. È una protesta pacifica, ma come sempre accade che ci siano estremisti che si aggregano e che mandano anche messaggi odiosi, indubbiamente, però il fatto stesso che dentro la protesta pacifica ci siano anche molte organizzazioni di studenti ebrei da solo è un elemento che dovrebbe spazzare qualsiasi tentativo di far passare questa protesta per antisemita. Ecco, quello che si nota è che nel discorso dominante, sia della politica che dei media, se guardate per esempio le trasmissioni di Fox News, ma non solo, dei media, diciamo così, di destra, negli Stati Uniti, che sto un po' cercando di seguire questa idea che si tratti di una protesta antisemita, di una protesta violenta, e non di una protesta universale e di una protesta soprattutto pacifica, si sta cercando di farla passare in tutti i modi e diventerà un tema importante anche a questo punto, va visto nel quadro del dibattito per le elezioni presidenziali di novembre, dove per esempio i due candidati per il momento sono abbastanza indistinguibili, e però a un certo punto bisognerà vedere che cosa cambia nella narrativa. A me sembra che già stia cambiando qualcosa anche nella politica del governo americano verso Israele. Cioè, ci sono maggiori pressioni per un cessate il fuoco, perché la situazione sta diventando imbarazzante anche per il governo Biden, che non sa assolutamente che pesci prendere, non sa che cosa fare di fronte a questo che è il tema in questo momento dominante nei media americani, e come sapete le campagne devono seguire il tema. Io quello che vi consiglio di fare e di seguire il più possibile anche tanti canali di informazione alternativi che raccontano naturalmente la protesta in un modo diverso. Poi ciascuno di voi ha i mezzi, insomma, se ascoltate questo podcast avete sicuramente i mezzi per distinguere le informazioni credibili da quelle non credibili, la propaganda dal racconto puntuale, dalla cronaca puntuale di quello che sta succedendo. Ecco, quello che vorrei dirvi è che secondo me, se i ragazzi che partecipano alle proteste sentono che la protesta è giusta, non è perché sono sobillati da ipotetiche organizzazioni arabe, non è perché non sanno usare i media, anzi tutti gli studi dicono che le giovani generazioni sono più in grado di capire quali sono le fonti di informazioni credibili e di discriminare tra quelle credibili e quelle meno credibili rispetto all'approccio abbastanza ingenuo che hanno invece su internet le persone che normalmente si informano attraverso i media mainstream. Vi consiglio di continuare a seguire le proteste usando anche i canali social perché è importante per capire veramente quello che sta succedendo proprio a livello culturale in questo momento, che non può essere derubricato a un'operazione, diciamo così, che rende i nostri giovani vittime nelle mani di qualche potere occulto. Non può essere ridotto in questi termini, così come non lo poteva essere negli anni 60, quando c'erano altri movimenti protesta che sicuramente lasciarono un segno importante.